100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Mario Draghi ieri è stato chiaro nel suo intervento alla Banca Centrale Spagnola. La BCE continuerà il suo programma di emissione di liquidità fino alla fine dell'anno, poi comincerà a ridurre gli acquisti di titoli pubblici e privati e in una fase successiva inizierà un percorso di aumento graduale dei tassi di interesse. È la risposta all'ala tedesca della BCE che più volte ha chiesto di anticipare invece la fine del cosiddetto QE perché il clima economico dell'Eurozona è ormai migliorato. La crescita c'è ed è vero ed è in aumento, è la tesi di Draghi, ma l'inflazione, che è il vero target di riferimento per le azioni della Banca Centrale, non è ancora risalita come si vorrebbe. Quanto agli effetti che la politica espansiva sta avendo su banche e istituzioni finanziarie, Draghi ha negato che sia responsabilità della BCE la riduzione dei margini dovuta ai tassi negativi, un'accusa che invece viene spesso mossa dai banchieri tedeschi al capo della BCE. Ciò che invece deve far pensare noi italiani sono le conclusioni della Financial Stability Review della BCE diffusa sempre ieri. Dice in sostanza la Banca Centrale Europea, una normalizzazione graduale dei rendimenti obbligazionari in tandem con il miglioramento delle prospettive di crescita economica sarebbe vantaggiosa dal punto di vista della stabilità finanziaria. Vi sono tuttavia dei rischi che i rendimenti possano salire bruscamente senza un miglioramento simultaneo delle prospettive di crescita. Ciò significa che i paesi che hanno un alto debito avrebbero contraccolpi troppo forti a causa del rialzo repentino dei tassi, mettendo a rischio la sostenibilità del debito pubblico e di quello privato. Per l'Italia è un avvertimento: o si fanno le riforme per creare le condizioni di una crescita economica robusta, o quando cambierà la politica monetaria il paese sarà tra i più esposti ai venti dei mercati. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Salvatore Padula. Il TAR del Lazio ha inferto un duro colpo alla riforma dei musei e ha bocciato con due sentenze la nomina di 5 dei 20 direttori dei supermusei nati proprio con la riforma. Il ministro dei beni culturali Dario Franceschini ha già fatto sapere che ricorrerà contro le due sentenze. In particolare il TAR ritiene che non fosse possibile aprire le selezioni a direttore dei musei a candidati stranieri e ben 7 dei nuovi super direttori sono proprio stranieri, tra i quali 2 interessati direttamente dal verdetto del TAR. Quindi è chiaro che la riforma rischia di uscire piuttosto malconcia, ridimensionata da queste due sentenze. E questo sarebbe davvero un peccato, perché i risultati di questo primo anno di riforma mostrano che il sistema museale sta cominciando a funzionare meglio rispetto al passato. Lo dicono i dati di accesso ai musei e il merito di questa ritrovata efficienza va riconosciuta anche ai nuovi direttori, compresi i 7 stranieri. D'altra parte però non è possibile attribuire al TAR, che deve ovviamente fare il suo mestiere, la colpa di questo stato di cose. La bocciatura che è arrivata sui criteri di nomina dei direttori è piuttosto pesante. Se il ministro intendeva aprire ai direttori stranieri la guida dei maggiori musei italiani, lo doveva fare con il supporto di una norma di legge che consentisse una deroga alle norme sul reclutamento del personale nella pubblica amministrazione. In questo caso, certamente, il TAR non avrebbe avuto nulla da obiettare. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.